Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, questa è Italia in controluce, Radio 24. Il governo ha deciso questa notte di prorogare per altri 2 anni i termini per l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. Gli esperti a questo punto dovranno verificare la fattibilità tecnica. Italia in controluce ricostruisce oggi la storia del progetto, le lunghe mani anche della criminalità organizzata in passato su alcuni appalti. E allora lanciamo subito le nostre domande al 349-238-6666 per i vostri SMS. Se serve secondo voi costruire questo ponte di Messina, se è una delle priorità del paese e se siete preoccupati sulle possibili infiltrazioni delle mafie. Io saluto subito Edoardo Zacchini, che è vicepresidente di Lega Ambiente. Buongiorno Zacchini. Buongiorno. Ascoltiamo insieme Raffaella Calanda, che è qui in studio con noi, che ricostruisce un po' da dove partiamo. Raffaella, intanto partiamo dalle novità di questa notte, da una decisione che è arrivata quando mezzanotte era passata solo da 12 minuti ed è arrivata 24 ore dopo l'ultimo scontro su questo tema all'interno del governo. Come anticipavi, il governo ha deciso di prorogare per 2 anni i termini per l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo stretto. Lo scopo dichiarato è quello di verificare la fattibilità tecnica e la sussistenza delle condizioni di bancabilità. Una lunga nota di Palazzo Chigi da interpretare spiega infatti come la decisione sia dettata dalla necessità di contenimento della spesa pubblica in linea con la proposta della Commissione europea di non includere più il progetto nelle linee strategiche. Questa sorpresa di Halloween, potremmo definirla così, è stata però salutata con favore dalla società per il ponte, dall'entourage dell'amministratore delegato Ciucci, che anche se rimanda a domani dichiarazioni ufficiali ci fa sapere a Radio 24 che interpreta questa decisione positivamente come un'apertura di credito del governo verso l'opera. In realtà però va registrato anche che proprio 2 giorni fa, all'origine dello scontro tra i ministri Passera e Barca, ci sono stati proprio i 300 milioni di pagamento delle penali in caso di accordi rescissi. Una norma era stata proposta all'interno della legge di stabilità e poi stralciata. Una norma che era stata giudicata troppo sbilanciata a favore della controparte e troppo onerosa per un'opera, il ponte, che è a campata unica, ricordiamolo, lungo 3.300 metri, che al momento sembrava non doversi fare. Ora l'esecutivo in realtà specifica che qualora in questi 2 anni non si giungesse a una soluzione sostenibile, scatterà la revoca di tutti i contratti tra la concessionaria Stretto di Messina, di cui l'ANAS è azionista di maggioranza, ed Eurolink, il contraente generale, questo consorzio guidato da Impregilo, ma appunto scatterà anche il pagamento delle sole spese effettuate e con una maggiorazione al 10%, questo scrive Palazzo Chigi. Di sicuro, e concludo, questa è l'ultima puntata, come dicevi, di una storia lunghissima, fatta di continui stop and go, che nel 2001 sembrava che il ponte fosse quasi fatto, l'allora premier Berlusconi annunciò per il 2004 la posa della prima pietra, ma poi col passaggio degli anni e delle legislature anche di diverso colore, anche se la pietra non è mai stata posta, la società, quella per il ponte, non è mai stata smantellata. Così nel 2008, col ritorno del Cavaliere, ritornò anche quel progetto, bocciato poi nel 2011 da Bruxelles, e ora staremo a vedere quali saranno le sorti in questi 2 anni. Allora, alcuni SMS sono già arrivati al 349-238-6666. No, no, no, scrive 3 volte no, Marina da Milano. Alla nostra domanda se serve costruire il ponte di Messina, non serve, la mafia aspetta, facciamola aspettare per sempre, dice Cristina Grimaldi. Claudio invece dice che sicuramente una delle priorità insieme alla TAV, ma per la mafia, visto la perdita di potere politico e quindi economico, vedi Sicilia, dice Claudio. Vi ricordo 349-238-6666, no al ponte, dice, non è una priorità, dice Paola da Verona. Allora, Zacchini, vicepresidente di Lega Ambiente, perché siete critici voi sulla costruzione del ponte di Messina? Ma perché oggi il governo sa tutto della situazione del ponte, sa sappiamo che dalle ultime stime dovrebbe costare quasi 9 miliardi di euro, sappiamo che di investitori privati non c'è traccia, nel senso che sono spariti tutti quelli che avevano annunciato, preannunciato che avrebbero contribuito in parte a finanziare la costruzione, sappiamo che è l'opera più complessa mai realizzata al mondo, per cui ci sono degli enormi problemi tecnici e ambientali ancora irrisolti. Allora, il governo sapeva tutto e di fronte a un progetto definitivo che doveva ora essere appunto approvato per la valutazione di impatto ambientale e poi in conferenza di servizi ha preferito rinviare tutto di 2 anni. In questi 2 anni che cosa può succedere, Zanchini? Da come si può interpretare quello che scrive il governo, si andrà avanti con approfondimenti e magari si approverà il progetto definitivo, perché è questo che vuole la società Stretto di Messina e che vuole General Contractor. Per capirci, se si firma il progetto definitivo scatta una penale di alcuni miliardi di euro, perché è un mancato guadagno se poi ci si ferma. Se si arriva a questa decisione è chiaro che è una strada senza ritorno. A quel punto, essendoci una penale di alcuni miliardi di euro, se si ferma il progetto si comincerà la costruzione del ponte. Grazie Zanchini, abbiamo naturalmente molte altre pagine. Grazie vicepresidente di Legambiente, 349-238-6666 e Raffaella Calanda. C'è poi il tema, e che è un tema cruciale, quello delle possibili infiltrazioni della mafia. Certo, perché se chiaramente i progetti e soprattutto le grandi opere non possono fermarsi soltanto perché c'è il rischio delle infiltrazioni mafiose, ma bisogna lavorare per evitare queste infiltrazioni, di sicuro tutte le mafie, in questo caso essendo un'opera che insisterebbe su Sicilia e Calabria, nello specifico Cosa Nostra e 'Ndrangheta, seguono come sempre tutti i grandi progetti, soprattutto se si tratta di progetti pubblici. E già un'indagine della DIA svelò un giro di soldi che doveva provenire anche dal Canada per investimenti proprio sul ponte, come ci ha ricordato il dottor Maurizio De Lucia, che è magistrato della Procura Nazionale Antimafia. L'interesse delle mafie verso le opere che muovono grandi soldi, grandi masse di denaro è altissima, soprattutto in un momento come questo, nel quale in realtà di opere pubbliche in Italia se ne fanno poche e al sud ancora meno. Quindi è chiaro che tutto quello che gira intorno alla fattibilità di realizzazione del ponte, sia dal lato calabrese, purtroppo il lato dell''Ndrangheta, che dal lato messinese, e quindi gli interessi di Cosa Nostra siciliana, è altissimo. Dalle opere minori all'acquisto dei terreni, al ciclo del cemento, perché inevitabilmente si devono utilizzare grosse quantità di questo materiale, sono tutte cose che sono nell'interesse dell'organizzazione mafiosa. Ci sono già state anche delle inchieste, ci potrebbe essere anche una forma di intesa, di accordo per spartirsi in qualche modo gli affari intorno alla costruzione del ponte? Sarà molto interessante vedere se le mafie si organizzeranno per spartirsi, tutto quello che si possono spartire, fatto salvo naturalmente la capacità di controllo dello Stato, o se invece questo possa stimolare addirittura una guerra fra le organizzazioni mafiose. Ecco. Anche se non è ancora in costruzione, il ponte però è un progetto di cui si parla da tanto tempo e che quindi non è passato inosservato anche nelle comunicazioni interne ai clan. Questo ci risulta, nel senso che le organizzazioni criminali hanno storicamente un grande interesse verso gli appalti pubblici. Se dovessi individuare adesso l'area di vulnerabilità maggiore è quella naturalmente dei subappalti, perché qualunque grande impresa voglia lavorare sul ponte poi necessariamente ha bisogno di materiali e di manodopera che vengono dal territorio. Lo Stato, ma anche noi come Direzione Nazionale Antimafia, stiamo cercando di attrezzarci con una serie di attività di monitoraggio che riguardano essenzialmente le persone che appartengono alle imprese, che soprattutto la circolazione dei capitali e quindi il controllo dei flussi di denaro. Per quanto riguarda il ponte, ricordo un'inchiesta di qualche anno fa fatta dalla DIA di Roma che evidenziava come l'investimento interessasse organizzazioni criminali che avevano sponde anche oltreoceano, ricordo flussi di capitali che sarebbero dovuti arrivare dal Canada. È un'opera che ha avuto tantissimi stop and go. Come hanno vissuto le mafie tutte le alterne vicende intorno all'ipotesi di costruzione dello stretto? Gli stop and go rispetto alla realizzazione del ponte in qualche misura non aiutano neanche loro. Sono pronti a investire, a tentare di infiltrarsi, naturalmente vivono con fastidio la possibilità di non poter programmare i loro investimenti illeciti nell'opera. Rimane il fatto però che siccome sono strutture molto più elastiche degli apparati burocratici dello Stato e delle stesse imprese legali, sono molto più attive e capaci di adeguarsi nel momento in cui davvero dovesse ripartire il progetto di realizzazione del ponte. Scrive Stefano da Novara: il ponte aiuterebbe la Sicilia a modernizzarsi. Andrea da Vercelli dice che per realizzarlo aumenterebbero nuovamente la benzina, e poi mi piacerebbe sapere l'effettivo utilizzo. Andrea da Vercelli. Graziano da Cagliari: facciamo pagare le penali che ha avuto la brillante idea di accettare questa clausola senza prevederne altre. Ponti semi-inutili, solo se pagati al 99%, caos penali. Beppe Guastalla: altri due inutili costosi anni per un'opera senza senso, scrive Giuseppe Vizzardi. Il ponte serviva a Berlusconi per passare alla storia, scrive Emanuela. Dovremmo, non so perché dovremmo pagare noi questo suo capriccio. Questi sono i vostri sms, alcuni naturalmente dei vostri sms, e che erano già stati accordi tra Cosa Nostra, quindi i miei fratelli e 'Ndrangheta sul ponte. Lo rivelò anni fa proprio a Raffaella Calanda, storiace, la prima boss siciliana, capo del mandamento di Partinico, Giusi Vitale. Sentiamola. Si controllano gli appalti, i lavori edili, però la maggior parte del ricavato dei soldi vengono dalle estorsioni comunque che si chiedono alle imprese edile. Prima che lei venisse arrestata, già si parlava all'epoca di ponte sullo stretto. Si valutava se era conveniente o meno, quanto poteva fruttare avere un ponte o non averlo. Poi per esempio c'era il discorso che comunque c'era pure la 'Ndrangheta, l'Acce 'Ndrangheta calabrese. Comunque non è che avevano brutti contatti con noi, cioè anzi. C'è mai stata qualche riunione operativa su questo? In Sicilia, quando sentite che fanno una cosa del genere, senti in America, pensavano che dovevano fare il ponte Brooklyn, dici guarda. So comunque che i contatti c'erano, perché mio fratello aveva, cioè fino a quando c'era mio fratello, avuto pure contatti con i calabresi. Come tu sai, lo stretto prende le due punte, Sicilia, certo. Quindi o vuoi non vuoi dovevano allearsi. Ma che stato è quello che si arrende perché c'è la mafia? Questo è un nostro ascoltatore. È tutto, ci risentiamo domani 2 novembre, Facebook, pagina gruppo, Twitter, conto luce @radio24.it.